Sfargea sulle grotte. Una ragion, vani argomenti son questi, onde sgomenti chi credulo da mente al tuo garrire. Menti, menti! Non ha ricetto brutta frode in bel viso, né albergano le forie. Ciao, costanza, c'era il sole che non... pregaste? Di troppo mi pregasti, tanto importa il segreto che ridirlo giammai, giammai non oserò. Stesso è di saper concesso. Perdonami, ben mio. Non lo dirò, perdonami, non lo dirò. Certi risolvo. Sappi, la mia fortezza consiste nel mio crin. Esserciso fosse da ferro ostile, ora infermo il vigor, l'animo abbandonato il freno, fu visto il senso altero entrar scoperto ad occupargli il seno. E pur del molle gremmo d'impura fasitea, letto e tomba formando al petto forte, il folle amante in profondo sopor restò sepolto, che gli recise il crin l'infame globo. Da mille funi l'involto indarno ei si dibatte, e a tanto arriva nel filisteo la crudeltà tiranna, che degli occhi lo priva e a villopra e mesce al cor di piano. vento, come Circe spietata, una bellezza ingrata mi trasformò. Mi trasformò in giumento. Osservi il gran Sansone, il domator dei mostri, il fulmine di guerra, sferza e terror delle nemiche schiere. Or cieco, cieco e incatenato, Sisifo condannato a vivo inferno, svolge mole, svolge mole pesante il giro si frange. Ben conoscere or saprai e potrai Folle che sei!